Eccolo finalmente il decreto rilancio, una vera e propria finanziaria con interventi per 55 miliardi per imprese e cittadini, tra i quali c'è un po' di tutto e ci sono quasi tutte le categorie, anche prese singolarmente. Approvato ieri sera insieme alla regolarizzazione dei lavoratori in nero e dei migranti, che aveva bloccato l'intesa tra 5 Stelle e PD. Molti nodi politici, però, si sappia, non sono ancora sciolti. Ci sarà modo di analizzarlo nel dettaglio e comprenderne punti di forza e di debolezza. Lo faremo mentre ci si prepara ad un lunedì 18 maggio, che è quasi una fase 3. Si va verso la riapertura dei negozi, ma solo nelle regioni, per così dire, in regola coi contagi. Si va verso la riapertura delle palestre il 25. Si va verso la ripartenza del campionato il 13 giugno. Forse. E le scuole? Non riaprono, e già lo sappiamo, ma apprendiamo dalla ministra Azzolina che non esiste sei politico e che in realtà i professori, e questo lo abbiamo appreso giusto ieri, potrebbero decidere di bocciare gli alunni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, è giovedì 14 maggio, sono le 6:31 minuti. Al microfono, come sempre, con voi c'è Simone Spezia e la nostra task force di questa mattina è composta da Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In redazione gli altri, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi, la nostra vera task force. Potete raggiungerci, raggiungermi al 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp, anche audio per le vostre voci. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre, ci trovate là, su Twitter, su Instagram. Allora, siamo al decreto rilancio, ex decreto aprile, poi decreto fine settimana scorso, poi decreto lunedì, decreto martedì, decreto mercoledì, mercoledì è arrivato alla fine, con questo accordo politico sulla regolarizzazione, che alcuni chiamano sanatoria, altri regolarizzazione, a seconda del punto di vista politico dal quale la si vede. In realtà è un provvedimento per l'emersione del lavoro nero, che però ovviamente porta alla regolarizzazione di migranti già presenti sul nostro territorio, ammesso che non abbiano commesso reati, che non siano destinatari di provvedimenti di espulsione. Ed è stato appunto al centro della questione politica. Detto ciò, è un decreto da 55 miliardi con una serie di interventi a pioggia e una serie di micronorme. Sentiamo Conte, va, ieri sera. Introduciamo anche delle misure di rilancio, di sostegno alle imprese per dare impulso alla crescita, accompagnare l'economia verso una pronta ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione delle tasse, sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora più leggere. Ah, poi ovviamente nel menù della giornata qualche ascoltatore ce lo segnala, ma ci arriviamo, insomma, ne abbiamo parlato tutto ieri, immagino, in tutte le trasmissioni, di queste dichiarazioni allucinanti del deputato leghista in aula alla Camera su Silvia Romano. E però restiamo su questo decreto, Conte ancora sulle famiglie con figli. aiutiamo anche le famiglie che hanno figli, che devono fare i conti con i problemi anche delle scuole, scuole che se non sono chiuse però con la didattica a distanza ripropongono il problema dei figli a casa. Ancora Conte sul famoso reddito di emergenza. Abbiamo anche un reddito di emergenza per delle fasce della popolazione che in questo momento hanno bisogno di particolare protezione. Ecco, per i lavoratori. Così dunque il Presidente del Consiglio, che poi ha detto molte altre cose, ha riassunto in sostanza gli stanziamenti per ogni singolo settore. Come si diceva, al centro della scena politica sicuramente c'è la regolarizzazione dei lavoratori in nero e dei migranti, e c'è stato un momento particolare. Ora sapete che la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, che sarà tra l'altro nostra ospite oggi alle 8.35, mia e di Maria Latella, nasce come sindacalista dei braccianti. E quindi il momento di ieri evidentemente per lei è stato particolarmente toccante. Si è presentata in conferenza stampa e a un certo punto, quando ha parlato di questo provvedimento, dopo aver enunciato quali erano gli stanziamenti per l'agricoltura, si è commossa. Per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative, dove venivano date persone in prestito. Allora, qua qualche ascoltatore già scrive, perché io sapevo che questa vicenda avrebbe scatenato. Un ascoltatore dice: inutile giustificare la Bellanova, piange per i clandestini, se ne frega gli italiani. Io invito a scindere un po' le due cose. Io ho l'impressione che, insomma, per Teresa Bellanova e per la sua storia personale, diciamo, come ministro, sia come ex sindacalista, questo sia stato effettivamente un momento rilevante, se vogliamo una sorta di apice di un percorso di vita. E però scendiamo dalla sostanza di quello che è stato deciso, perché se dobbiamo stare a quello che ci dicono le associazioni di imprenditori agricoli, questa regolarizzazione servirà francamente a poco, e lo dicono chiaramente tutte e tre le principali, oggi interpellate da Micaela Cappellini sul Sole 24 Ore. Prandini di Coldiretti, che dice: sa quante persone di quelle che verranno regolarizzate lavoravano effettivamente nei campi? 1500, 2000 al massimo su 200.000 che ne mancano. E ancora Gian Santi di Confagricoltura: sono una minoranza degli immigranti che abitano nei ghetti, lavorano in agricoltura, molti ad esempio si occupano di edilizia, quello che ci servono sono i corridoi verdi o i voucher. E quindi scindiamo le due cose, insomma, non prendetevela con la Bellanova, che con la ministra Bellanova, che ha una sua storia personale, un suo percorso che l'ha portata evidentemente a questo momento di commozione, che può essere anche comprensibile, e devo dire la verità, dimostra anche che uno, tutto sommato, nella politica ci sono anche degli elementi di passione, no? E ci sta, e ci sta. Scindiamo da questo la sostanza poi del provvedimento, se servirà effettivamente oppure no. Sulla sanatoria, un ministro dei 5 Stelle, Costa, dell'ambiente, che tra l'altro è stato un po' sotto traccia in quest'ultimo periodo, Costa, sentiamolo. Io ho rappresentato che non avrei gradito una sanatoria generalizzata rivolta a chi? In particolare ai caporali. Invece parlare della regolarizzazione, che non è una sanatoria, di quei poveretti che si trovano sfruttati in mezzo ai campi, mi sembrava sacrosanto. E la soluzione mi sembra che sia stata trovata proprio in questi termini: vanno salvaguardate i lavoratori, le persone che vengono sfruttate, vengono salvaguardate, vengono poste, come si dice, in chiaro, in modo tale che vengono salvaguardate anche in termini giuridici, sanitari e in termini amministrativi, ma nessuno salvi i caporali che sono veramente commettono reati odiosi. Dice Michele Emiliano, il presidente pugliese, abbiamo bisogno di manodopera. Abbiamo bisogno anche di manodopera. Poi la manodopera sul mercato internazionale si trova nel modo in cui si trova, cioè chiedendo dove sta la manodopera di venire qui a darci una mano. Non c'è nulla di ideologico in questo, anche se io personalmente ho anche un profilo ideologico sulla questione dei migranti, ma non ne voglio parlare oggi per non complicare quindi le cose. Quindi vanno regolarizzati perché servono, punto e basta, dice lei. Certo. Così il presidente della Regione Emiliano. Sì, poi molti di voi ovviamente ricordano le lacrime di Elsa Fornero all'approvazione della riforma delle pensioni. Situazione ugualmente molto difficile, se vogliamo, quella dal punto di vista economico per il paese, un tipo di provvedimento completamente diverso, come ovvio. Comunque, vi invito ancora una volta a non soffermarvi sulle lacrime, ma a soffermarvi invece sulla sostanza del provvedimento. Ne parleremo con Bellanova oggi alle 8.35, comunque. Oh, devo dirvi che sono rimasto francamente quantomeno perplesso, nel sentire ieri quello che ha detto la ministra dell'istruzione Azzolina alla Camera. E perché? Perché avevamo appreso da precedenti comunicazioni che quest'anno non ci sarebbe stata alcuna bocciatura ed è presumibile, e avevamo anche contestato questa decisione, dicendo, non è che glielo puoi dire adesso, glielo dirai quando arriveremo a ridosso della fine dell'anno, se no molti ragazzi smetteranno di lavorare, quelli no, ci saranno alcuni molto coscienziosi che continueranno a studiare, altri meno coscienziosi che smetteranno di studiare molto semplicemente o studieranno molto meno. E però dare l'idea di regole che cambiano in corsa, io non lo so, sentiamo Azzolina, va. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più discipline. Ma non sarà assai politico. Le insufficienze compariranno infatti nel documento di valutazione. E per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori ai 6 decimi o comunque con livelli di apprendimento non consolidati, sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare nella prima parte di settembre quanto non è stato appreso. Resta ferma la possibilità di non ammettere all'anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico. Ma insomma, ma puoi dire una cosa di questo genere dopo 2 mesi di tira e molla che non si capisce il sei politico e la promozione, non la promozione, la bocciatura? Insomma, francamente, Non lo so, il che naturalmente non toglie che in una situazione di questo genere la scuola che bocci si espone ad un rischio ricorso molto elevato. Come al solito, norme non chiare, interpretazioni che vengono date a parole, ma insomma poi nella sostanza non si capisce che cosa deve succedere. E ci sono un po' di genitori appesi, un po', giusto un po'. Cosa ancora? La vicenda di Silvia Romano, le parole del deputato leghista, il parlamentare leghista Pagano, che hanno scatenato molta confusione alla Camera e non solo. Sentiamolo, va. Quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia, e evidentemente... Sto citando Repubblica, mi dispiace. Onorevole Pagano, credo che riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio. Quindi, eviterei soprattutto di farlo in quest'aula. E quindi voglio dire, c'è stata una discriminazione. Colleghi, ho già stigmatizzato le parole dell'onorevole Pagano. Se avete... Capisco che questo vi fa innervosire, però... E questa tutta la confusione, poi le repliche che sono arrivate, Salvini che precisa, non è che si è proprio scusato, ha detto lasciamo stare Silvia Romano. Silvia Romano che forse finirà sotto scorta, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché a quanto pare c'è il sospetto che abbiano lanciato una bottiglia contro la sua casa, sono stati trovati dei cocci di vetro, insomma non è chiaro. Sentiamo anche Giorgia Meloni, perché poi c'è tutta questa questione del riscatto. Il riscatto ieri è stato negato da, o meglio non negato da Luigi Di Maio. Anche qua bisogna fare attenzione alle parole, Ha detto una cosa del tipo: nessuno ha detto che è stato pagato un riscatto. Poi però nell'intervista col quotidiano La Repubblica, della quale vi abbiamo parlato due giorni fa in rassegna stampa, con un portavoce di Al-Shabaab, questo gruppo terrorista che ha sequestrato Silvia Romano, lui dice chiaramente: con quei soldi, il portavoce di Al-Shabaab dice, quei soldi ce li abbiamo e li useremo per comprare armi. Quindi è probabile che il riscatto sia stato pagato, un po' come è successo sempre per l'Italia. E Meloni chiede, qualcuno lo smentisca questo, Però qualcuno deve smentire il portavoce di Al-Shabaab. Mi pare che non sia stato fatto. Di Maio ha detto: non mi risulta che siano stati pagati i riscatti. Mirta, non facciamo... Va bene. E giusto una precisazione prima del traffico, Non pretendo, come mi scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so, che i nullafacenti siano promossi esattamente come quelli che sono stati diligenti fin dal mese di settembre. Per carità, guardi, anzi. Però pretendo che si dica una parola chiara e che non si cambi idea ogni mese, ogni due settimane, per i genitori e, come mi scrive un altro ascoltatore o ascoltatrice, anche per gli insegnanti, che a questo punto non sanno esattamente cosa fare. Traffico. Ma perché non ricordi, mi scrive qualcuno, che i riscatti li pagava anche Berlusconi, inteso come i governi Berlusconi? Guardi, noi qua l'abbiamo detto, i riscatti li hanno pagati sempre tutti. E vogliamo dircela chiaramente, anche i paesi che sostengono di non pagare i riscatti, in realtà i riscatti li pagano, magari attraverso altri paesi alleati, cioè si accordano con qualcuno e gli dicono: paga tu il riscatto per me e fammi liberare l'ostaggio, così io posso dire alla mia opinione pubblica che il riscatto non l'ho pagato, e poi lo pagano lo stesso. Quindi su questo, insomma, c'è poco da fare. Andiamo adesso alla mitologica questione delle mascherine. E qua voglio dirvi molto chiaramente che anche ieri pomeriggio ho fatto un po' di telefonate per cercare di capire un po' meglio le cose, e la realtà è che non si capisce nulla, perché il commissario Arcuri compare quasi ogni giorno in conferenza stampa e poi oggi ha rilasciato un'intervista, adesso ve la vado a ripescare, se non vado errato, con il Corriere della Sera, può darsi, sì, eccolo qua, un'intervista con il Corriere della Sera. Ogni giorno ci fornisce dei numeri, ieri vi abbiamo dato quelli delle mascherine che sarebbero presenti nei magazzini delle regioni e che le regioni non liberano, delle mascherine che verranno prodotte dalle aziende italiane con le quali lo Stato ha sottoscritto un contratto, delle mascherine che dovrebbero arrivare dall'estero. Fatto sta che c'è una confusione estrema nella quale sono trovate in mezzo le aziende che all'alba di questa crisi da Covid-19 hanno deciso di riconvertire la produzione, o almeno una parte della produzione. Tra questi Azzurra Morelli, che è titolare dell'azienda Pelle Moda e vicepresidente di Confindustria Firenze, che è in linea con noi. Morelli, buongiorno e benvenuta, eccoci. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, come sono andate le cose da voi? Anzi, facciamo una cosa, Morelli, partiamo da una cosa molto semplice. quante mascherine, se le state producendo, quante mascherine state producendo e quanto vi costa produrre ogni singola mascherina? Così diamo un punto agli ascoltatori già sul prezzo, che già è una questione centrale. Certo. Allora, noi fino, diciamo, alla scorsa settimana producevamo circa 60.000 mascherine al giorno. Le nostre mascherine sono cucite, non sono stampate, perché noi le produciamo nella nostra linea interna di produzione, quindi da sarte italiane che di solito cuciono capi per l'alta moda, perché il nostro core business è la produzione di abbigliamento in pelle per i brand internazionali del lusso. Quindi il costo, l'incidenza del costo della mascherina per noi è altissimo, in quanto ovviamente è un costo basato sul costo orario italiano. E sul costo orario, mi scusi Morelli, sì. Immagino sul costo orario italiano di personale che avete, e che è un personale altamente specializzato, perché normalmente lavora per questi brand della moda, ovviamente. Sì. Prego. Sì. Il costo si aggira intorno ai 60 centesimi, il costo vivo, quindi significa che appunto il prezzo imposto dal commissario di 50 centesimi al pubblico per noi ovviamente è una rimessa, sì. E diciamo che ci ha deprezzato appunto il materiale in casa mentre stavamo ancora aspettando la certificazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Dice una cosa, Morelli, quando avete mandato la richiesta di, e questo è un altro punto fondamentale, l'abbiamo trattato spesso, i tempi dell'Istituto Superiore di Sanità per la certificazione dei prodotti. Quando avete mandato la richiesta di certificazione? Quanto tempo fa? Allora, noi abbiamo inviato la autocertificazione perché all'inizio la procedura era questa, ovvero l'azienda doveva inviare un'autocertificazione corredata con appunto delle dichiarazioni, e l'abbiamo inviata il 28 di marzo. Sì. Non abbiamo ricevuto risposta fino a dopo Pasqua, nonostante i nostri solleciti sia telefonici che via email. Ovviamente capivamo in quel momento la situazione di emergenza, eccetera, però ecco, all'inizio l'Istituto Superiore di Sanità aveva detto che in 3 giorni massimo avrebbe dato una risposta. Il problema è che questa risposta a noi è arrivata voi avete ricevuto una richiesta esplicita per iniziare a produrre mascherine? Allora no, noi abbiamo praticamente riconvertito l'azienda all'inizio per senso civico, in quanto già il 23 di marzo, quando è stato deciso il lockdown, non si riuscivano a trovare mascherine sul mercato e le pochissime che si riuscivano a trovare avevano dei prezzi esorbitanti. Quindi abbiamo deciso appunto di convertire un reparto della nostra azienda, in quanto era molto semplice, in quanto appunto le macchine da cucire esistevano, le sarte esistevano, quindi il tempo della riconversione è stato immediato. E lo abbiamo fatto soprattutto per appunto supportare ed aiutare le persone che in prima linea lottavano contro il virus, ovvero gli ospedali, le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato, in quanto la prima parte della produzione, ovvero più di 20.000 mascherine, sono state donate da noi a tutti questi enti. Dopodiché appunto abbiamo inviato la richiesta di autocertificazione. E poi siete rimasti. Quando ci hanno risposto, quindi dopo Pasqua, abbiamo ricevuto l'autorizzazione a produrre, sì, da parte dell'istituto. Quindi noi abbiamo continuato la nostra produzione, in quanto il prodotto era, ci avevano detto, comunque altamente performante. Il problema è mascherine che, come Morelli, chirurgiche, quelle chirurgiche. Mascherine, sì, in 3 strati di TNT, sì, sì, sì, chirurgiche, quelle. Dopo 2 settimane dalla, diciamo, dall'esame della nostra documentazione, ci è stato detto che mancavano dei test. Quindi abbiamo dovuto diciamo riniziare una parte della procedura, e questi test ovviamente hanno dei tempi lunghi, ovvero sono 10 giorni, sì. E quindi il risultato degli ultimi test è arrivato lunedì e noi ieri sera abbiamo inviato la documentazione definitiva all'istituto, e speriamo, perché non ne siamo sicuri finché non arriverà. Speriamo entro domani di ricevere appunto una risposta. C'è possibilità a questo, io non ho più capito come sono andati gli accordi, abbiamo 20 secondi, c'è possibilità di ristoro per voi, inteso lo Stato supplirà questa differenza di prezzo oppure no? Io ad oggi penso di no, nonostante le nostre richieste, spero di sì, però al momento non riesco a vedere nessuno spiraglio in questo senso. Senta Morelli, ricominciate la produzione normale? Se sì, quando? Certo, noi abbiamo ricominciato il 4 di maggio, la scorsa settimana, non in pieno, siamo al 40% della forza lavoro. Diciamo che i progetti da parte dei clienti arrivano in maniera un po' lenta, però diciamo una stagione che è la primavera estate che sembrava completamente saltare, è stato deciso appunto un po' da tutti di farla ed uscire un mese dopo, sì. E questo per noi è un'ottima notizia. Grazie Azzurra Morelli, titolare della Pelle Moda, grazie per essere stata con noi. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.